Web. Incursioni nell'arte e nella letteratura. Webble.it, il sito della cultura a Bologna, si occupa anche di libri, la cultura è anche memoria e anche storia, e quindi vogliamo proporvi questo volume che viene presentato alla libreria Zanichelli di Piazza Galvani giovedì alle 17.30. Si chiama Tante braccia per il Reich, il reclutamento di manodopera nell'Italia occupata 1943-1945 per l'economia di guerra della Germania nazionalsocialista. È un volume edito da Mursia, un volume naturalmente storico, a cura di Brunello Mantelli, e alla presentazione saranno presenti lo stesso curatore insieme ad alcuni degli autori dei saggi che compongono questa raccolta: Andrea Ferrari, Marco Razzi e Toni Rovatti. È una raccolta introdotta dal curatore, appunto Brunello Mantelli, con un saggio dal titolo Tra Marte e Vulcano, manodopera italiana nell'economia di guerra del Terzo Reich, ed è un primo studio di carattere organico su quali furono le modalità, le dinamiche del prelievo forzato, coatto di lavoratori dall'Italia e del loro sfruttamento oltre il Brennero nell'epoca della Repubblica Sociale di Salò. Sono 11 saggi che documentano questo fenomeno un po' a varie latitudini geografiche, partendo dal profondo nord, da Torino, Genova, Milano, per passare anche in Emilia-Romagna, per arrivare fino al Lazio. Un'opera importante, una raccolta che ci descrive questa pagina nerissima, oscurissima della nostra storia, nemmeno troppo lontana, peraltro corredata anche da una bibliografia generale, quindi con una descrizione molto precisa delle fonti archivistiche. Ci sono appunto le varie parti, i vari tasselli da un punto di vista geografico, compreso appunto quello che riguarda abbastanza da vicino la zona dell'Emilia-Romagna, con il saggio di Andrea Ferrari e Marco Razzi dal titolo Da Imola al lavoro per il Terzo Reich, la documentazione del fondo ANED dell'Istituto Cidra. È naturalmente un'opera storica, un'opera molto specifica, molto puntuale, promossa dalla Fondazione Gramsci Emilia Romagna con la collaborazione anche dell'Associazione Nazionale Deportati, insomma di altre associazioni, di altre realtà che si occupano di mantenere viva appunto una storia che è stata peraltro riuscita a emergere con l'importanza che avrebbe dovuto rivestire. Questi lavoratori, queste persone che appunto furono in maniera assolutamente violenta costrette appunto a lasciare la loro vita, a lasciare le proprie case, le proprie famiglie, che si ritrovarono appunto a lavorare forzatamente in Germania e naturalmente anche a sostenere appunto l'ultima parte della campagna di guerra, l'ultima parte della campagna appunto di una Germania al declino, di una Germania nazista in grave difficoltà. Infatti soprattutto quest'opera si concentra sulla fase appunto della nascita della Repubblica Sociale di Salò in Italia, che fu appunto l'ultimo rigurgito del ventennio fascista appunto nel nostro paese. E però quest'opera storica, un'opera appunto molto precisa, molto specifica, ha il grande merito appunto di ricordarci una pagina davvero buia della storia del Novecento, e di farlo appunto con gli strumenti precisi, con gli strumenti affilati della ricostruzione storica, delle testimonianze, della puntualità delle fonti, e naturalmente quindi anche con la forza della cultura.